Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non ce n'è niente! Lo sbarco sulla luna è andata la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda, ma te sputo che fai? Buongiorno, buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. E buongiorno un cazzo del martedì a tutti quanti. Benvenuti a questa nostra nuova puntata dove, svegliandoci con una certa garbo e serenità, cercheremo insomma di fare questa puntata tornando su un tema che in realtà avevamo promesso poi alla fine, perché avevamo detto che prima o poi avremmo parlato insomma di quello che è l'elenco elettorale insomma relativo a Roma in particolare, ma diciamo che prendiamo Roma come esempio per fare un discorso un po' più in generale, perché credo che poi le realtà siano simili un po' dappertutto, soprattutto nei grandi centri, ma che magari differiscono per necessità, virtù e cultura, insomma, e via dicendo. Intanto salutiamo Michela De Paola che dice che è sveglia da 2 ore, chi te l'ha fatto fa, e salutiamo anche Walter Sbano che mette una manona gigantesca. Dicevo, c'è da capire un po' quello che sono alcuni dei meccanismi politici, poi dopo magari parliamo anche dei risultati, che insomma ci frega il giusto, ci frega perché chiaramente comunque dei segnali diversi insomma da quello che magari ci si aspettava ci sono stati, quindi è importante magari anche tornarci, così come alla fine sono sempre un buon riferimento i sondaggi, ma le proiezioni alla fine comunque ci hanno sempre un buon margine di errore, insomma, perché comunque a Roma poi alla fine il distacco, la situazione è sicuramente inferiore a quella che ci si aspettava, e quindi insomma lo vediamo. Allora, finalmente parli delle liste elettorali, esatto Francesco, che salutiamo anche lui. Ma parlo delle liste elettorali perché? Perché poi alla fine esistono dei meccanismi che sono delle strategie politiche in generale, quei meccanismi disgregativi voluti insomma da chi vuole provare a levare voti insomma diciamo a determinate realtà, un po' con l'inganno, magari utilizzando nomi similari oppure simboli che ricordano vagamente determinate realtà politiche piuttosto che altre. E poi c'è anche la disgregazione politica vera e propria, che adesso la vediamo insomma, perché poi alla fine ogni elemento va un po' analizzato per quello che è, un po' proprio per tradizione quasi, perché ci sono delle realtà che se accorpate rappresenterebbero una forza dai 15.000 ai 25.000 voti a Roma, che non sono pochi, e poi ci sono poi delle forze invece che stanno lì proprio per creare un po' di scompiglio poi alla fine, questo per creare disordine. Maggiore è la confusione all'interno delle liste, meglio è. Una cosa che noteremo è che non metto a sciominare ogni dato perché sarebbe insomma un po' lungo, anche un po' palloso, però quello che possiamo notare è che i partiti, singoli partiti, le singole liste hanno preso comunque generalmente meno voti, anzi sempre meno voti rispetto al candidato, perché significa che molte persone hanno votato direttamente il candidato e magari hanno tralasciato di votare il partito, o non ci hanno pensato, o non gliene fregavo, magari hanno votato anche un altro partito, ma non credo questo sia stato possibile. Non so bene come sono non mi ricordo come sono adesso le schede elettorali per le comunali. Un'altra realtà che è propria a Roma sono quelle comunità, quelle un po' sotterranee, quelle comunità religiose un po' strane, un po' sotterranee, che non è che si capisce bene quali, a volte alcuni hanno a che fare con i templari, alcuni hanno a che fare con la chiesa, alcuni sono delle sette proprio in generale, che delle sette cattoliche che comunque a Roma ci sono e stanno insomma nel tessuto, stanno nel sottosuolo, sono piccolissime realtà che però comunque all'interno delle quali hanno una certa rilevanza, spesso e volentieri una rilevanza anche economica importante, che però poi dopo questo non si traduce, diciamo, nel risultato che vorrebbero. Poi c'è questa tendenza un po' strana, pur ridimensionandosi in un certo senso questa vocazione alla destra, diciamo ci sono poi quelle realtà che sicuramente ammiccano, diciamo, anche a versioni passate di un certo tipo di area politica. E poi c'è questa questione, ne parlavamo ieri sera su OGM, ho fatto questo riferimento, c'è questa questione dell'impero romano, no? Questo richiamo forte in particolare a queste elezioni all'impero romano, compreso il candidato sindaco in testa per ora alla competizione, che comunque fa sempre un po' riferimento a questa questione dell'impero romano, che oggettivamente al di là dell'ammiccamento insomma magari a stimolare, diciamo, anche l'orgoglio della candidatura, poi fondamentalmente stai facendo comunque riferimento a una civiltà di 2000 anni nel passato che poco ha a che fare con noi, se non l'estrazione, diciamo, culturale su alcune cose che insomma, diciamo, fanno parte un po' della saggezza di una città come Roma, che, come dico sempre, è un po' questa grossa matrona, questa grande puttana che abbraccia tutti, vuole bene a tutti ma niente a nessuno in particolare, no? Quindi è un po', c'è sicuramente, diciamo, un fatto derivativo, ma sicuramente questa questione dell'impero romano, come ho detto, ci ha un po' rotto i coglioni, no? Perché parliamo delle cose come stanno oggi, e soprattutto perché poi il romano ha sì una sua identità, e gli piace parlare della sua identità, gli piace anche confrontarsi con le altre identità, ma non è così campanilista, penso che i romani sono più legati alle squadre di calcio che al fatto che io voto perché questo partito si chiama Roma, ad esempio. Comunque vediamo un attimo a noi, perché poi qui adesso questa questione delle liste elettorali assume anche un'importanza diversa, perché mentre prima avevamo tutto questo discorso che volevamo fare, oggi esiste anche, intanto, Carlo Sant'Agostino, il capitano Kirk e Star Trek vanno a spazio. Ah, regà, l'avete condiviso 60 volte questa cosa, 60, non una. Tra l'altro questo è lo stesso articolo che avete ricondiviso ieri 60 volte. Vabbè, comunque. Dicevo, questa cosa assume anche una particolarità diversa, perché alle liste, insomma, anche al commento che possiamo fare sulle liste, ci abbiamo anche i voti. Io partirei proprio dal basso in tutti i sensi, perché c'è un certo Carlo Priolo che fa parte di un movimento che si chiama Figli d'Italia, Bambini del Mondo. Cioè, a me poi, quando io metto, cioè, perché ci stanno tutte queste realtà, no, che vorrebbero fare leva sul cuore della gente, no, e ci mettono sempre i bambini di mezzo, che è la cosa più squallida, più schifosa che possa esistere, perché allora c'è il bambino di mezzo, allora c'è il bambino di mezzo, invece fa schifo questa cosa, a parte che la trovo proprio anche un po' podofila, perché cioè a me quando vedo bambini penso ai preti, penso alle cose strane, cioè questa cosa a me è proprio la cosa più politicamente inconcepibile, ma poi tra l'altro è una politica che veramente non c'entra niente. Insomma, il nostro amico Carlo ha preso 180 voti in una città di 3 milioni di abitanti. Potete capire la rilevanza e lo spreco di risorse dal punto di vista anche cartaceo, perché insomma, comunque, questi hanno dovuto fare bolli, cose, insomma. Ma non finisce qua, perché c'è anche il partito delle buone maniere, che io penso sia importante, insomma, un partito fondamentale che, sulla quale abbiamo fondato la nostra Costituzione, immagino. Giuseppe Dottor Seduction Cirillo. Ragazzi, di che cazzo stiamo a parlare? Cioè, questo si è presentato alle elezioni sulla scheda elettorale come Giuseppe Dottor Seduction Cirillo, che poi seduction si intende seduzione o sedazione, no, seduzione, veramente 314 voti, ragazzi. 314 voti del dottor Seduction, gli volemo bene perché è veramente impressionante. Poi c'è il movimento, allora c'è MPL, Movimento Politico Libertas. Questo, vedi, questi sono quelli che già un po' tipo ai bambini sotto, questi cominciano a fare un po' gioco sull'immagine dello scudo, della religione, di tutti quei movimenti. Sapete che una volta vi racconterò una cosa relativa ai Templari che è veramente interessante. Comunque, questo si chiama Paolo Oronzo Magli. Oronzo, ragazzi, c'è Oronzo Canà, c'è Io Volemo Bene anche a questo. 387 voti sono tanti. E poi, ragazzi, avanti popolo alla riscossa, abbiamo il Partito Comunista dei Lavoratori, perché questo non è il Partito Comunista, è quello dei lavoratori, perché poi c'è anche quello di quelli che non lavorano e c'è quello di quelli che ne so, tipo compagno del lavorio magno, insomma, no? Il PCL, quindi il Partito Comunista dei Lavoratori, Francesco Grisolia, mai sentito, 486 voti. Vuol dire che, insomma, sto partito non è che rientra, insomma, nella grande verve dei partiti importanti che potrebbero cambiare il mondo tramite la rivoluzione, insomma. Progetto civico Antica Roma, progetto civico Attiva Roma, cioè, nel senso che c'è un pulsante che tu stai lì, a un certo punto spingi il pulsante e si attiva Roma. La nostra carissima Margherita Corrado, sembra mamma mia, poverina. E questa qua si è presa 579 voti, che già cominciano a diventare. Tra l'altro, mi sono dimenticato di dirvi, parliamo anche un po', che Carlo Priolo, quello là del partito dei bambini, là, Figli d'Italia, Bambini del Mondo, c'ha proprio la faccia, cioè, avete presente gli imbonitori religiosi americani? Cioè, sembra proprio uno di quei teleprofeti, là, tele, insomma, vabbè. Questo so, e vabbè, e qui invece Margherita Porina, però ha preso anche un sacco di voti, questo bisogna riconoscerlo. Come si chiama questi bambini del priore? No, ve l'ho detto come si chiama. E poi c'è giustamente stato messo un nuovo meme. Ah no, è il video del priore che parla dei bambini che si morono di fame, giustamente, è una cosa storica che vi invito sempre ad andare a guardare, ovviamente sulla nostra chat telegram.me dirette runtime. E tra l'altro, insomma, è una delle cose che ieri ha funzionato. Tornando al discorso dell'antica Roma, anche questo personaggio di cui abbiamo parlato anche ieri sera in OGM, movimento storico Roma Lista Nerone, cioè tutto insieme sta roba, quindi è tutto senza la virgola, senza niente. Movimento Storico Roma Lista Nerone, e c'è sto Sergio Nerone Iacomoni che ha preso 716 voti. Questo giustamente era quello che Walter Sbano ieri ricordava, andava va in giro, fa tribune politiche vestito da romano, che poi io questa connessione io non la capisco, perché poi in realtà che c'è stata, cioè, tu che c'hai da spartire col senatore romano, per esempio, insomma, quindi e insomma, so cose abbastanza importanti. Ricordiamo sempre che poi ci stanno i liberisti italiani con questo Andrea Bernaudo. Allora, ricordiamo che in realtà il movimento grosso di centrodestra, insomma, quello che fa il listone, insomma, per portare i propri candidati è in realtà un movimento che parte dal liberale al liberista. Quindi questa cosa dei liberisti italiani mi ricorda molto il partito ultraliberista americano, no? Quello che si candida praticamente alle elezioni presidenziali con un proprio candidato, poi ovviamente non rientra nel contesto, e che di solito sono quelli legati a QAnon o tutti questi movimenti ultra de destra strani, insomma, che e quindi questo qui alla fine così si è portato a casa 978 voti, come a dire, insomma, ragazzi, questi voti avrebbero potuto servire a qualcuno magari per salire nella classifica. Poi vediamo, perché in realtà poi ci sono i candidati importanti che molti dei quali sono, non dico appaiati, ma insomma poco ci manca, insomma, no? Quindi questo è il movimento Idea Sociale MIS, ragazzi, cioè di che stiamo a parlare? Vediamo se a qualcuno gli squilla l'orecchio della memoria, diciamo. Idea Sociale MIS, basta invertire un po' le lettere, tipo invece che la I e la S le inverti. Insomma, il Movimento Sociale Italiano, questi stiamo, il partito post-fascista subito dopo la guerra, è questo, cioè, sono loro, non senza nessun dubbio, e questi cominciano a già avere un bacino rilevante, 1437 voti, che non sono mica pochi, per fare un discorso, diciamo, che se si accorpano insieme ai bambini del mondo, ai liberisti italiani, già incominciamo a avere un candidato eletto al Consiglio Comunale, però insomma sono voti, poi i voti, ragazzi, i numeri, come dice, se pesano, insomma, no? Italia dei Valori una volta era un partito rilevante, no? Uno dei tanti frammenti dell'ex Democrazia Cristiana, che uno diceva, beh, ma oh, l'Italia dei Valori ha preso 1542 voti, quindi lo 0,2%, ovviamente è sparito come realtà. Tra l'altro io poi dopo faccio una domanda, magari qualcuno mi sa risponde. Nel frattempo aspettate che metto un brano e poi ritorniamo, così insomma parliamo, perché insomma c'è sempre roba da mettere. Poi considerate che noi quando decidiamo di mettere un brano, a un certo punto il programma fa le rotelle. I wanna feel the dance. E rientriamo, ragazzi, rientriamo. Aspettate che mi metto la cuffia, perché qui insomma è sempre un po' un casino, tutto un po' magna magna Vox, insomma tutte storie un po' così. E dicevamo che sì, carina questa canzone, ci ricorda insomma i bei vecchi tempi in cui anche noi facevamo canzoni. Non è vero, non abbiamo mai fatte, no. Sto cercando di prendere tempo perché ovviamente sto facendo tutto da solo, e come giusto che sia, e quindi insomma mi ci vuole un attimo, un po' di tempo per far ritornare la giusta informazione sul nostro player. E intanto il gatto giustamente biastima. Comunque riprendiamo un attimo il nostro cammino. Dicevo, l'Italia dei Valori che praticamente è sparita, sta sparendo, grazie al nostro questo Rosario Trefiletti, Rosario Trefiletti, insomma è l'uomo che ha portato l'Italia dei Valori fuori dalla grazia di Dio, insomma. Quindi aspettate che tiro una ciabatta al gatto. Ecco, adesso è scappato il gatto. Allora ragazzi, riprendiamo il nostro cammino. 0.2%, 1637 voti, il grandissimo Gilberto Trombetta del movimento, il partito Riconquistare l'Italia, cioè questo già l'aveva conquistata l'Italia, però gli è sfuggita evidentemente, non ha saputo gestirla, e l'ha detto la riconquistiamo, quindi riconquistare, capito? Cioè è rafforzativo, cioè non è che lui la deve riconquistare una volta, la deve riconquistare assolutamente due volte. Poi abbiamo Fabiola Cenciotti, è una donna, Fabiola con 1992 voti, vedete che insomma siamo il popolo della famiglia. Questi sono quelli che qualsiasi riferimento insomma a tutto ciò che non è la parola che loro decidono che la parola di Dio deve essere completamente cancellato. Ma però vedi, per una questione di, come posso dire, di destino, poi alla fine, perché tu insomma alla fine sei legato alla religione, ma la tua religione è divisoria, non è unificante, no? Cioè nel senso, tu è la religione dell'odio, del non avere un Dio benevolo, ma di avere un Dio re, quello che comanda, quello che punisce i culattoni, no? Cioè i culattoni devono morire tutti. Infatti con 2622 voti il nostro carissimo Fabrizio Marrazzo, forse sarà stato anche un parente, non so, partito gay LGBT plus, perché c'è anche il plus, giustamente non gli abbastava. E vedete che alla fine il destino colpisce sempre, il che significa che a Roma è probabile ci siano più sostenitori del partito LGBT plus rispetto al partito della famiglia, che viene definito un partito civico, quindi non si colloca dal punto di vista dell'orientamento politico. Questa era una cosa che succedeva molto tempo fa, adesso un po' di meno, perché adesso c'è l'orgoglio. Prima, una volta, c'era, come posso dire, un po' si vergognavano, che tutte le liste civiche erano prevalentemente tutte di destra, però non gli andava di darsi una connotazione di destra, allora erano civiche. Invece il movimento LGBT plus, il partito gay LGBT, è un partito che si definisce di sinistra. E insomma 2622 voti cominciano a diventare importanti, come diventano importanti i 3177 voti di Cristina Cirillo del Partito Comunista Italiano. Allora, qui entriamo al di là del Partito Comunista dei Lavoratori, che abbiamo visto prima, no? Quelli che c'erano una poca manciata di voti. Entriamo invece in un contesto che adesso vedrete, di una disgregazione, di una costellazione dei partiti di ispirazione comunista, socialista e socialdemocratica, che al di là delle ovvie differenze, che poi diventano differenze storiche, perché questa nella sinistra proprio è un fattore endemico, proprio non gliela possono fa, perché chiaramente vabbè ci sono gli oltranzisti, ci sono le persone radicali e via dicendo, no? Però comunque in generale tu pensi che la sinistra non esista, in realtà la sinistra è talmente disgregata che alla fine porterebbe dai 15.000 ai 25.000 voti all'interno del Consiglio Comunale se avesse una progettazione unitaria e abbandonasse alcuni presupposti, diciamo così. Cioè cercasse di svincolare da determinati presupposti, perché come ho raccontato tante volte, io sono stato un sostenitore del giornale Lotta Comunista non perché condividevo il pensiero di Lotta Comunista, che non lo condividevo perché era una posizione talmente radicalizzata sul che comunque proprio indicavano esplicitamente, loro non credevano alla democrazia parlamentare ma solo alla dittatura del proletariato, però essendo stampa clandestina io la sostenevo, cioè nel senso mi piaceva proprio questa idea e lo trovavo giusto. Poi dopo è successa una cosa un po' strana con questi ragazzi de Lotta Comunista, non veniva più il compagnetto, quello con la sciarpa, tutto, arrivavano vestiti di giacca e cravatta, tutti precisi, tutti che sì signore, sì. Oh, ma che cazzo, ma che è sta roba, ma perché insomma. Vabbè, comunque abbiamo visto il Partito Comunista Italiano che però è stato superato in classifica grazie a 3.596 voti dal Partito Comunista, quindi questo non è italiano, questo è proprio il Partito Comunista, proprio è lui, quindi già stavamo praticamente a 7.000 voti, già stavamo a 7.000-8.000 voti, quindi insomma Micaela Quintavalle, io questa mi sa che la conosco anche tra l'altro, c'ho un vago. Poi c'è sta un partito che non si capisce, candidato civico ovviamente, quindi sono di destra, Revoluzione Civica, Revoluzione Civica, ci piace questa cosa un po', che ne so, latinoamericana, non lo so, vabbè, Monica Lozzi ha preso 4.370 voti, insomma non è poco. E poi niente, c'è Roma Ti Riguarda, Berdini sindaco, Rifondazione Comunista, Roma per l'ecologia, Partito del Sud, tutti insieme questi, ma non tutti insieme come una lista dei partiti, ma è un partito unico che si è... E c'è sto Paolo Berdini che ovviamente ha preso 4.471 voti, vedi, già stiamo a quasi a 15.000 voti, attenzione, quindi Elisabetta Lisa Canitano, sinistra, Potere al Popolo, anche queste, e stiamo su 6.339 voti, ragazzi, qui stiamo a salire proprio, cioè raggruppiamoli, stiamo, secondo me stiamo già sui 15-20.000 voti, qui insomma roba importante dal punto di vista elettorale, però non ce la fanno. Candidato civico 3V Verità Libertà, questo mi sa che, correggetemi se sbaglio, ma è il 3V, è quel movimento del matto, quello di Trieste che ha fatto tutta quell'imboscata alla posta per farsi campagna elettorale e diceva tu rispondi per autorità o dispositivo di legge, non so che cazzo faceva sta domanda, che era una domanda predefinita che non voleva di un cazzo, andava lì al carabiniere, lo voleva arrestare perché quello gli ha parlato, gli ha dato una megafonata sull'orecchio, insomma, quindi vabbè, un altro cretino, insomma. E comunque vabbè, questi qua però questi sono i terapiattisti proprio, cioè quelli Soros, sai, tutte queste, cioè, quelli che mettono tutto quanto insieme, 6.791 voti, insomma, è importante, questo è abbastanza importante de suo, grazie a Dio, insomma, non essendo alleati con nessuno, non decide. E qui praticamente finisce, diciamo, tutta la soglia inferiore. Da qui invece inizia praticamente il grande distacco, cioè nel senso iniziano i quattro candidati principali che alla stato attuale delle cose, quindi praticamente a scrutini quasi completati, manca veramente niente, i risultati non so poi alla fine andati così come ci si aspettava. Intanto io mi soffermerei su Virginia Raggi, che penso che sia stata, possiamo definirla, al di là del nostro pensiero politico, del modo in cui vediamo le cose, la simpatia o antipatia che possiamo averci per lei o per il Movimento 5 Stelle, parliamo proprio di dati oggettivi, quindi non parliamo di azione politica, è l'esperienza politica più disastrosa che si ricordi all'interno di questa città, perché comunque il Movimento 5 Stelle ha eletto Virginia Raggi persona uscita dal nulla, praticamente dalla famosa storia delle primarie, dove loro inizialmente erano veramente convinti di prendere tutta sta gente dalla strada, completamente incapace politicamente, per poterla poi gestire, evidentemente, perché questa è un po', secondo me, la loro idea. Poi il tutto inevitabilmente gli è sfuggito di mano. E Virginia Raggi non soltanto non ha mai mostrato la sua presenza, non ha mai fatto un'azione politica significativa e rilevante, anche se i suoi sostenitori, che come diciamo, non bisogna informarsi, non bisogna vedere se è vero o non è vero, bisogna solo credere, oggi bisogna credere che sia così assolutamente, che erano gli stessi, insomma, che andavano in giro onestè, no? E poi alla fine oggi sono mezzi, non dico estinti, perché tutto sommato gli è andata anche bene rispetto a quello che mi aspettavo. Però Virginia Raggi, che era stata eletta, non ricordo se al primo turno o al secondo turno, ma comunque con un grande entusiasmo dei voti, insomma, una grande importanza come sindaco di Roma, oggi finisce quarta con 204.000 voti quasi, al 19,2%. Con, invece che il Movimento 5 Stelle da solo, il Movimento 5 Stelle è accompagnato da Lista Civica Virginia Raggi, ecco perché poi vi spiego anche questa cosa, Cultura e Innovazione Roma Ecologista, Sportivi per Roma, bah, con le Donne per Roma, che poi diciamo, ricordiamoci che Virginia Raggi ha sfrattato quella famosa associazione che sosteneva le donne, perché lei ha portato l'onestà a Roma, no? Ha portato l'onestà, e quindi associazioni culturali, associazioni sportive importanti, anche storiche, tutti via, tutti cacciati via, perché lei ha portato l'onestà. E Roma Decide, che insomma, Roma Decide non ha preso manco voti, mi sa. Però no, Roma Decide non ha preso voti. Però praticamente, perché dico questa questione delle liste civiche? Che spesso e volentieri, quando c'era una ricandidatura o c'era una candidatura e si voleva puntare su un candidato, però si pensava che il partito riferimento del candidato magari non fosse proprio piacevole per tutti, e allora si facevano quelle liste civiche d'accompagnamento che in realtà erano fittizie, no? Come Lista Civica Virginia Raggi, cioè... io non Cultura e Innovazione Roma Ecologista, cioè, capito? Cioè, tutti i movimenti ecologisti stanno in un'altra collocazione politica. Comunque Virginia Raggi fa un tracollo importante finendo al quarto posto, ma fa un tracollo importante il Movimento 5 Stelle, che arriva all'11,1%. Questa è a Roma, è veramente una cosa veramente significativa. Poi io ho detto, sto parlando di Roma, ma in generale, poi dopo vediamo, insomma, però comunque molte cose, allora la Lista Civica Calenda Sindaco, invece, ricordiamo che lo spot di Calenda faceva riferimento al voto a un sindaco, non un partito. In realtà dietro Calenda chiaramente c'è l'Italia Viva, che non si è voluta esporre. Praticamente Italia Viva non ha partecipato a queste elezioni, fondamentalmente, non direttamente, perché altrimenti avrebbe fatto, insomma, una figura che quello che si meritava. Comunque Carlo Calenda, il romanista, ricordiamo, insomma, proprio quello con la faccia da romanista, quello che ha fatto i tweet contro la Lazio, che subito durante la campagna elettorale si è proprio preoccupato subito di no, al Flaminio non se ne parla perché ci sono i vincoli storici, e allora fatelo crollare sto stadio. Io vorrei che crollasse sulle macchine di qualcuno, ma pure su qualche ragazzo, ragazzino, qualcuno che passa per là, insomma, sarebbe bello. Così se ne famo due risate con sta stronzata dei vincoli che servono per tenere immobilizzate strutture che stanno andando nel degrado più totale, ma poi la merda, non è, dicevo, una cosa, cioè un impianto che ha, proprio perché è storico, che ci dovrebbe avere. Poi qui in Italia c'è tutta sta questione che gli impianti sportivi devono essere del comune, non si sa, in tutto il resto del mondo ogni squadra ha il proprio impianto sportivo, deve essere il comune, deve essere gestito dal CONI, quindi cioè, c'è tutto un giro di magna magna in Italia sempre, e da sta cosa noi non ne usciremo. Comunque Calenda, sei arrivato terzo, quindi te ne vai a casa, come giusto che sia, che è la cosa più, più importante, insomma, anche perché io ero preoccupato, perché ero convinto comunque, molte proiezioni, molte simulazioni dicevano che Calenda, se fosse arrivato al ballottaggio, avrebbe vinto con qualsiasi candidato, il che significa che la gente di primo acchito non l'avrebbe votato, ma lo avrebbe comunque preferito agli altri candidati in qualsiasi caso. Quindi è una cosa un po' strana, ma so cose che in Italia abbiamo visto tante volte, come quando c'era ancora il pentapartito e il Partito Comunista Italiano prendeva la maggioranza nel Senato ed era il secondo partito nella Camera dei Deputati. Perché? Perché comunque la gente votava in maniera differenziata, c'era questa concezione culturale anche dell'equilibrio democratico, che oggi non esiste più, ma non ci penso neanche a parlarne di sta roba. Roberto Gualtieri, 286.000 voti, quindi insomma un bel po' di più de Calenda, che ha preso, aspettate che mi sono scordato, 208, quindi 80.000 voti in più, con il 27.0%, se si attesta al secondo posto e va al ballottaggio con Partito Democratico, Lista Civica Gualtieri Sindaco, vedete sempre questo meccanismo che ritorna, Sinistra Civica Ecologista, che ha preso 19.000 voti, quindi il 2%, lo sogniamo a quell'altro dei partiti di sinistra giù di sotto, che stiamo sui 25-30.000 voti, quindi vedi che alla fine è Roma Futura, che mi piace proprio il nome, Demos Democrazia Solidale, questi hanno preso 9.000 voti, insomma, voglio dire, no? Se ci fosse un progetto unitario dal punto di vista della sinistra, poi c'è Europa Verde, questa Europa Verde, io ho sentito un sacco gli spot, sì, ho sentito gli spot che puntavano prevalentemente sull'Europa Verde, cioè nel senso sul partito più che sul candidato sindaco, infatti loro si facevano la pubblicità a loro stessi, era bella sta cosa. E poi c'è il Partito Socialista Italiano, ragazzi, io quando vedo sta cosa un po' mi fa sempre un po' strano, scusate se non vi sto a leggere in chat, abbiate pazienza, però come sapete io non sono multi rivoluzione, dice, sono monarchici, tre V sono Novax, sì, infatti azione del partito Lembolo sul tifoso delle sì, ma io penso, al di là di tutto, penso che un tifoso romanista avrebbe detto la stessa cosa se un candidato sindaco sei mesi prima, un anno prima, avesse fatto tutti i post Twitter, tutti i tweet contro la Roma, cioè nel senso, ma tipo cose, Calenda scriveva tipo i laziali sono laziali, non capiscono, cose del genere, insomma. Cioè non te puoi tu non, la politica ce l'ha sempre insegnato questa cosa, io l'ho fatta politica e sono uscito proprio per questo meccanismo qua, anzi mi hanno fatto uscire per questo meccanismo qua, cioè la politica non si può fare su queste condizioni, non puoi esprimere considerazioni verso un tizio, verso un quancaio, quando tu poi ti proponi adesso un sindaco. Probabilmente lui non ce l'aveva neanche nell'anticamera del cervello, io sono abbastanza convinto, però insomma è una cosa grave, no? Dai, è una cosa grave che alla fine comunque ti pesa, perché inevitabilmente se tu fai gioco magari sul fatto però magari quell'altro so di più, no? E però quell'altro che so di meno, però poi ti giochi, insomma, alla fine anche questo, no? Non pensate? Torna la stagione di Runtime Radio con vecchi appuntamenti e nuovi programmi derivanti dalla nostra grande storia di podcaster. Ogni giorno alle ore 9 e alle ore 15 una puntata casuale di Techno Pills di Alex Raccuglia. Alle ore 11 e alle ore 17 un episodio derivante da tutti i nostri programmi videoludici dal 2010 ad oggi. Alle ore 13 e alle ore 19 un episodio di Data Nightmare di Walter Bannini e Snap, architettura imperfetta di Roberto Marin. Runtime Radio, sempre più live, sempre più radio. www.runtimeradio.it. I Novax stanno a sbano come a me stanno i romanisti, quindi c'è questa dicotomia dal punto di vista, insomma, ideale, insomma, facciamo così, mettiamola sull'ideale. Comunque rimettiamo un po' la nostra base caruccia e sostanziosa. Allora, giustamente Sbano ci dice in chat che adesso, siccome che il PD l'ha trattata male, la Raggi vorrebbe alzare i suoi voti contro il PD al ballottaggio. Infatti mo ci arriviamo, perché poi parliamo un attimo del vincitore, per ora, insomma, della tornata elettorale, che è quello al primo posto, che poi dopo se la dovrà giocare. Perché dice che il PD comunque l'ha trattata male, no? Cioè, nel senso, poverina, perché qui stiamo, cioè, la politica è una roba personale, giustamente, ma una che portava i figli in consiglio comunale, gli faceva toccare tutti i pulsanti, come, perché so, cioè, perché stai al mercato, stai a casa tua praticamente. Insomma, non ha una cognizione, una consapevolezza politica di quello che sta succedendo. E poi non penso che gli altri l'abbiano trattata meglio di quanto poi l'ha trattata magari il PD. Insomma, questa è una cosa maggiore. È interessante invece vedere la posizione di Calenda. La posizione di Calenda è che lui si riserva fino all'ultimo di fare la sua dichiarazione di intenti per il ballottaggio. Il che significa che lui dirà di votare per il centrodestra, ma si vergogna a dirlo adesso per non essere preso a forchettonate da qualche parte. Quindi prima dovrà andare da qualche parte e poi lo dichiarerà, e poi dopo aspetterà qualche mese per poi tornare a Roma, insomma, perché sono abbastanza convinto di questo, insomma, che, perché se tu hai un'idea, se tu comunque hai delle considerazioni da fare rispetto a due candidati, una preferenza, tu la dici la preferenza. Non vedo il perché dovresti tenere nascosta sta cosa. E poi comunque, tra le virgolette, anzi no, senza le virgolette, nella sua dichiarazione comunque dice che comunque lui lascia libertà di scelta. E beh, certo, perché a me poi dopo, se io ho votato Calenda e Calenda mi dice devi votare questo, io devo votare quello, se no mi vengono a prendere a casa, insomma. Vabbè, comunque veniamo a noi, concludiamo un po' questa cosa, insomma, avete capito di che stiamo a parlare per quanto riguarda il discorso delle liste civiche. Ve l'ho spiegato, e soprattutto l'elenco di quello che c'è a Roma, insomma. Quindi Roberto Gualtieri, abbiamo detto che prende 286.000 voti per il 27.0%, che era sostanzialmente molto diverso come tipo di risultato da quello che era dato da alcune proiezioni, dove si dava, insomma, Gualtieri al 35%, se non anche di più, e invece alla fine sta al 30.2%. È vero che con 320.000 voti, ma ovviamente poi qui il conteggio è proporzionale, però insomma 30.2% rispetto a 27% sono un margine, insomma, di 3 voti, che è ben diverso da avere un margine di 6-7 voti, insomma, che comunque già cominciavano ad essere rilevanti. Quindi alla fine tutta questa vittoria schiacciante di Enrico Michetti, che ricordiamo Enrico Michetti sarebbe un po' da spiegare. Io mi rendo conto, parlando nelle chat con tanti amici, tante persone, insomma, che ci seguono o che comunque interagiscono spesso con noi, che la gente non si rende conto di che cosa parliamo quando parliamo del fenomeno Michetti, che non è il classico personaggio uscito dal nulla e che è stato comunque costruito da un'area politica che comunque fa gioco sulla sua corporatività, insomma, sul proprio corporativismo, diciamo, quindi sul voto di partito, diciamo così. Ma è un personaggio che si è costruito in maniera seminale, piano piano, tramite una radio romana, che è una radio che ha questa impostazione, cioè è una radio che tendenzialmente è una radio sportiva, e che ha fatto gioco sul fatto di avere un grosso bacino d'utenza, che è quello sportivo, perché ricordiamo, insomma, che a Roma le radio di Roma e Lazio hanno bacini d'utenza pazzeschi, pur trasmettendo praticamente 12-15 ore al giorno trasmissioni che parlano di Roma e di Lazio. Quindi poi alla fine, in effetti, questa cosa può sembrare anche un po' strana, però hanno un grosso bacino di utenza, e Radio Radio in particolare è una di quelle radio che a un certo punto ha A me non è mai piaciuto per l'approccio complottistico un po' strano che ci avevano. Però a un certo punto questa cosa ha preso proprio una deriva, cioè la deriva del complottismo, del Novax, del negazionismo. E con sto Michetti che praticamente poi è fissato con pure lui l'antica Roma, che insomma c'ha, come dicevamo prima, insomma Roma, l'antica Roma c'ha un po' rotto il cazzo, insomma, diciamo così. E quindi lui è un personaggio tendenzialmente poco conosciuto ai più, però conosciuto bene da un certo tipo di bacino d'utenza, e alla fine è stato scelto perché pur vedendo insomma personaggi come la Meloni che dovevano essere in grande ascesa, nessuno ha voluto metterci veramente la faccia a Roma, nessuno ha voluto mai metterci la faccia a Roma, in particolare appunto la Meloni, la romana, italiana, cattolica, madre che dice DS, Corca che si è messa a fare la candidata al sindaco di Roma, che probabilmente avrebbe anche spinto in qualche maniera. Perché? Perché comunque diventare sindaco di Roma nessuno lo vuole. E la stessa cosa come nel periodo della Raggi, no? La Raggi comunque ha vinto perché non c'erano candidati fondamentalmente, c'erano dei candidati pro forma, ma nessuno veramente voleva governare Roma. E quindi se l'è presa lei, insomma, in mezzo alle orecchie, completamente inconsapevole di quello che andava a fare, e adesso che è come sindaco uscente, secondo me è nello stesso livello di inconsapevolezza di prima. Quindi Michetti esce fuori così, esce fuori da un lavoro seminale fatto negli anni, una costruzione secondo me molesta di un pubblico diverso da quello politico, nel quale sono stati insinuati o sono stati amplificati dei messaggi che già girano, perché poi quello del negazionismo, del novaxismo, della banalizzazione politica anche, perché comunque dicono delle cose che non stanno né in cielo né in terra, però ovviamente dato che queste sono cose che già girano, già esistono, alla fine loro non hanno fatto altro che dargli forza. Bene, quindi questa è un po' la situazione a Roma, una situazione che secondo me è una situazione un po' globale, un po' lo specchio di quello che sta succedendo. Diciamo che tra le città rilevanti il centrodestra non ha preso nessuna città al primo turno, tranne, ho visto che hanno vinto le elezioni alla regione Calabria e forse qualche altra città nel sud, però io parlo delle cinque città principali. Ci sono solo due sindaci eletti al primo turno e sono tutti e due di centrosinistra, anche con delle rilevanti, insomma, importanti distacchi, insomma, dal punto di vista politico, soprattutto Milano, dove secondo me la Lega è crollata, e qui ci sarebbe da fare veramente. Adesso si aprirà il processo storico a Salvini, che in virtù di arrivare a posizioni politiche elettorali importanti ha completamente devastato tutto il bagaglio storico e ideologico della Lega, l'ha completamente spaccato, devastato, spaccando e devastando anche la Lega al suo interno, per poi dimostrare di essere quello che è stato, cioè uno che tira la cordata. Salvini era uno di quei personaggi che avrebbe dovuto far salire diciamo l'audience dal punto di vista politico e poi avrebbe dovuto farsi da parte, invece nella sua egomaniacalità, insomma, di voler essere sempre al centro dell'attenzione, lui ha saturato un messaggio diventando anche il simbolo di un'incompetenza politica, cioè lui è la rappresentazione del vuoto politico di oggi, cioè di persone che hanno la necessità di stare in televisione a dire no, no, no, a destra e a manca, di dimostrarsi forti, virili dal punto di vista politico, e poi di non avere nessuna concezione, nessuna capacità, nessun presupposto per poter avere un senso di governo, quindi di stare lì e governare, no? Mettersi lì praticamente a sbrigare quelle che sono le questioni da un punto di vista democratico, etico, ma soprattutto anche compromissorio, perché la politica è anche questa, no? Trovare anche con la diplomazia delle soluzioni, no? Lui fondamentalmente, ragazzi, in questi 10 anni non ha fatto un cazzo, cioè non ha fatto niente. E io penso che alla fine anche il suo elettorato che lo segue a prescindere, no? Matteo, Matteo, Matteo, no? Quelle teledonne che si strappano i reggiseni di fronte a Matteo, prima lo facevano per Berlusconi, quindi immaginate insomma l'importanza del gusto delle donne italiane insomma nei confronti degli uomini. E lui poi dopo alla fine pure la gente se ne sa un po', anche un po' conto che ha rotto i coglioni di sempre le stesse cose, e poi alla fine queste cose non succedono perché quando avrebbero potuto succedere non era in grado di gestire la situazione. L'unica cosa che è stata capace di fare è mettere l'Italia di fronte a crimini verso l'umanità, e mandare in galera un ex sindaco che per umanità invece aveva cercato di trovare delle soluzioni, aveva cercato di bypassare magari quelli che erano i regolamenti che la Lega in quel momento, la Lega, che Salvini in quel momento voleva che fossero sull'occhio dell'attenzione, diciamo così, e quindi insomma l'unico risultato vero politico è aver mandato tra virgolette in galera una persona. Complimenti a Salvini, che ha veramente dimostrato di essere quello che noi sapevamo, ma d'altronde da un comunista che ha cambiato 6-7 volte partito politico piuttosto di trovare l'attenzione, perché lui usciva dai partiti perché magari non gli davano spazio, entrava dentro un altro partito, mi date spazio qui? Sì, vabbè, però no, ah, vabbè, allora me ne vado, cioè così. Questo è Salvini è una persona con una forte necessità e un forte bisogno d'attenzione, fino ad arrivare alla contraddizione, perché lui aveva capito che c'era un momento nel storico dove lui qualsiasi cosa diceva, pure in contraddizione, la gente gli diceva comunque sì. E secondo me questa cosa alla fine inevitabilmente dopo, sai, troppo stroppia, gli è andata assolutamente contro. Bene ragazzi, io direi che potremmo fare un'analisi politica di quello che è la situazione insomma dal punto di vista elettorale, però ecco, diciamo che Le destre populiste e sovraniste si arrestano un pochino, c'è forse un ritorno un po' rinascimentale, umanistico all'interno del contesto, perché laddove comunque il populismo e il sovranismo hanno governato hanno fallito, e diciamo che le contraddizioni, le bugie, tutti quei sotterfugi, dati falsi, quel gioco di amichetto mio, amichetto tuo, il bertolasismo, insomma secondo me alla fine a lungo andare poi alla fine ha un po' rotto i coglioni. Con questo non significa che l'Italia è un paese che oggi si riscopre di centro-sinistra, sicuramente non lo è e sicuramente non lo sarà neanche nel prossimo futuro, però la nostra trasmissione finisce qui. Ci tenevo a fare questo elenco della lista perché è molto meno divertente di quanto uno si potesse aspettare, però è bello sapere che ci sono figli d'Italia e bambini del mondo che è tra noi e vigila e che si continuerà a candidare anche alle prossime elezioni. Quindi anche voi, se siete bambini del mondo, mi raccomando, votateli.